Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Non parto. No, io non lascio l'Italia, chiaro? Hai capito, bel paese? Io resto qui, io non ti lascio. Ci hai provato a farmi partire. Mi hai massacrato, scippato, rapinato, umiliato. Ma io resto, sai perché? Perché sono uno stronzo. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Correva l'anno 1977 quando Paolo Villaggio recitava questa scena finale di Il Bel Paese e a distanza di 35 anni quelle parole suonano come un inno alla resistenza di quei giovani che oggi non accettano di dover necessariamente cercare un futuro all'estero, ma vorrebbero poter scegliere. La frase della settimana è copyright del maestro Riccardo Muti. Sono rammaricato per i tanti talenti costretti ad andare via dall'Italia senza che si faccia nulla per trattenerli. La colpa è delle generazioni passate, anche la nostra. A questi giovani dico: non smettete di credere nelle vostre potenzialità. Tuttavia, aggiungiamo noi, crederci non basta, servono opportunità concrete per restare, anche per chi qui vuole fare impresa, magari non conoscendo nessuno, senza avere i contatti giusti. Mi sarei aspettato una società fondata sul merito e sul lavoro, non su immobilismo e corsie preferenziali per furbi e raccomandati. Adriano Farano, 32 anni, è un imprenditore e start-upper in Silicon Valley con la sua nuova avventura WhatsApp. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Prima però apriamo una nuova mini rubrica agostana qui a Giovani Talenti con le storie di chi nella scorsa stagione del programma ci ha raccontato il proprio personale controesodo in Italia. La prima storia che vi raccontiamo è quella di Alessandra Carrillo, una delle prime protagoniste della nostra trasmissione nell'ormai lontana primavera 2010. Nel settembre dello scorso anno Alessandra è tornata ai nostri microfoni per raccontarci come abbia fatto rientro a Roma professionalmente parlando. Rientrerò solamente se l'Italia comincerà a guardare più al futuro. Buon pomeriggio Alessandra. Buon pomeriggio. Lo hai detto poco più di 2 anni fa. Allora, ha davvero cominciato a guardare di più al futuro il nostro paese? Probabilmente è quello che mi auguro. Siamo in un momento di crisi, abbiamo tanto ancora da risolvere, ci sono delle potenziali elezioni in arrivo, ci sarà tanto con possibilità di cambiamento, quindi mi auguro inizi davvero a guardare al futuro e inizi a guardare ai giovani. Soprattutto ai giovani. E Alessandra, perché la decisione professionale del ritorno? Soprattutto è più semplice rientrare con una multinazionale estera che non essere chiamati da un'azienda italiana. Probabilmente sì, la decisione del rientro è stata una casualità e una volontà, nel senso che mi sono ritrovata a lavorare su un progetto in Italia, lavorando comunque per tutta Europa. Nell'ultimo anno e mezzo ho lavorato su questo progetto in Italia e man mano mi sono riavvicinata al paese e ho pensato, ma chissà perché no, potrei fare un tentativo di rientro. Quindi sono stata contentissima di farlo e sicuramente lavorare per una multinazionale mi ha favorito, perché rientro all'interno di una struttura che conosco bene, con un ruolo comunque europeo che mi dà anche la possibilità comunque di visibilità all'interno del mercato italiano. Quale Italia hai trovato ad aspettarti? C'è stato uno shock culturale? Tu arrivavi dalla Spagna, dalla Gran Bretagna, dove sei stata per diversi anni. Fortunatamente mi sono adattata pian piano, perché avendo lavorato a questo progetto in Italia nell'ultimo anno e mezzo ho avuto modo di venire spesso ed è stato un riadattarsi al proprio paese, quindi ho avuto modo di reinserirmi nei meccanismi dell'Italia. Un po' di shock, ma forse perché si è abituati a vedere l'Italia da fuori solamente in un certo modo quando la si incontra per il viaggio, per il ritorno, per le vacanze, quando la si vive quindi nella propria burocrazia, nei propri ritardi, nelle leggerezze, alle volte fa il suo effetto, però ci si riadatta se non la si vede con un occhio troppo cattivo, insomma. Tu sei riuscita a beneficiare della legge contro esodo per il ritorno dei talenti dopo 2 anni all'estero. Innanzitutto, è stato difficile poterne beneficiare? Non è stato difficile poterne beneficiare perché essendo una persona che comunque rientra con un contratto presso un'azienda è abbastanza semplice presentare la domanda, si prepara una domanda in carta semplice, si elencano tutti i punti di adesione comunque con quello che c'è scritto nella legge del controesodo e si ottengono i benefici. Diciamo che c'è stato un po' di dubbio su ottenere o meno i benefici, perché mancava ancora un decreto dell'Agenzia delle Entrate quando ne ho dovuto fare domanda io, quindi ero in attesa di quella comunicazione. È arrivato e è capitato giusto nei 10 giorni prima che potessi finire di inviare il documento, quindi sono stata abbastanza fortunata anche in questo. Porta benefici reali questa legge, cioè in termini anche di sgravi, di incentivi? Sì, allora, per gli uomini c'è uno sgravo del 70% sull'imposta fiscale e per le donne dell'80%, quindi effettivamente fino al momento in cui non si vede quanto effettivamente ti entra a fine mese magari non ci pensi, però poi inizia ad essere un beneficio sostanziale. Sicuramente qualcuno non decide di rientrare in Italia perché solamente perché ha un beneficio fiscale, però aiuta sostanzialmente a riadattarsi, a reintegrarsi comunque nel sistema Italia e dire ok, magari posso anche accettare uno stipendio diverso da quello che uno può avere a New York piuttosto che a Londra, piuttosto che ottengo un beneficio fiscale e poi nei 2 o 3 anni di adattamento magari riesco a trovare un altro tipo di posizione. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Silicon Valley, la mecca per definizione di qualsiasi aspirante startup. E ancora una volta c'è un giovane italiano pronto a sorprenderci con la sua carica innovativa fuori dagli schemi. Nome: Adriano. Cognome: Farano. Età: 32. Città di origine: Cava dei Tirreni. Studi: Scienze politiche alla LUIS. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? Strasburgo. Perché? Erasmus. Quale lavoro svolgi attualmente? Imprenditore. Dove? Silicon Valley. Tornerai? Tornerò, ma probabilmente non resterò. Bruce Springsteen, Born in the USA, per dare la carica alla storia di Adriano Farano, che inizia come molte altre, troppe altre purtroppo. Non ho lasciato l'Italia, è lei che ha lasciato me. È come una storia d'amore, ci vuole mutua passione, lei proprio non me ne dava di amore. Adriano, cosa ti saresti aspettato dal tuo paese? Forse semplicemente un'opportunità? Io sono nato, non sono born in the USA, sono born nel nostro bel meridione e ho avuto tanti valori, educazione, senso della famiglia, ma opportunità fondate sul merito pochissime. Mi sarei aspettato una società appunto fondata sul merito e sul lavoro, come è scritto nella nostra Costituzione, non su immobilismo e corsie preferenziali per furbi e raccomandati. Diciamo che in Francia e in America non funziona così. Ai giovani italiani è stata rubata la bussola, non l'hanno persa, è stata loro lentamente sottratta nell'incomprensibile silenzio generale. Buon pomeriggio, Ivan Lovello, vicepresidente di Confindustria per l'Education. Buon pomeriggio a voi. Queste sono le sue parole in un recente intervento sul Sole 24 Ore. E Lovello, lei parla di furto generazionale, accusa il paese di non parlare con le nuove generazioni. È anche per questo che molti come Adriano se ne vanno, ma soprattutto perché questa chiusura verso i giovani? Beh, questa chiusura verso i giovani nasce anche da una radicata cultura, ne parlava Adriano in questo suo primo intervento. Non c'è dubbio che qui abbiamo un grande problema, il merito che sostanzialmente dovrebbe essere la bussola del nostro paese anche per creare quella mobilità sociale che nel paese manca, che oggi invece è fortemente avversato da corporazioni, da chi non vuole cambiare, da chi pensa che i giovani siano un pericolo per il nostro paese. Noi siamo un paese sostanzialmente vecchio, non solo anagraficamente, ma vecchio nei suoi modelli culturali. Tra poco torneremo con lei, ascoltiamo subito però la storia di Adriano Farano, che inizia con l'iscrizione alla Facoltà di Scienze Politiche Università LUIS. Perché questa scelta, Adriano? Volevo fare il giornalista e mio padre mi spinse, credo giustamente, a ricevere un'educazione generalista di base, però mi diede una condizione, che mi sarei dovuto laureare in 4 anni, cosa che alla fine sono riuscito a fare. Ma è come nel tuo caso, si rivela fondamentale la tua esperienza di studente Erasmus a Strasburgo, qui insieme a un gruppo di coetanei, fondi caffebabel.com. Allora, cos'è e come nasce l'idea? Caffebabel.com è la prima rivista di attualità interamente tradotta in 6 lingue, che ha come scopo quello di favorire un dibattito e una copertura dell'informazione con uno stampo davvero europeo e transnazionale. C'è una community che scrive e traduce su base volontaria e poi tutto viene riletto da una unità centrale di giornalisti professionisti. Da allora la vostra idea ne ha fatta tanta di strada, al punto da essere oggi una delle pubblicazioni online online più vecchi ancora esistenti. Nel frattempo ti laurei, siamo nel 2003, e se dovessi quindi dare un giudizio all'università italiana, è un buon viatico verso il lavoro? È un buon viatico, nel senso che l'educazione che viene data in Italia su base teorica è, a mio avviso, tra le migliori al mondo. I collegamenti col mondo del lavoro però sono scarsi. Torniamo a cafebabel.com, che diventa nel giro di pochi mesi la vostra occupazione principale. Allora, quale ambiente favorevole avete trovato in Francia per dare avvio alla startup, in termini proprio concreti? In termini concreti c'è stato, dalla parte del rettore di Sciences Po Strasburgo, una grandissima apertura a questi due ragazzi italiani che venivano e che volevano cambiare l'Europa creando un giornale. Ci hanno dato un ufficio, ci hanno dato dei finanziamenti, ci hanno aiutato, ci hanno addirittura aiutato a creare il sito. Porte aperte all'innovazione. Ed eravate, ragazzi, l'hai detto tu stesso, italiani. Brevemente riassumo che la passione tua per il giornalismo addirittura affonda le radici a quando avevi 9 anni, allora fondasti il tuo primo giornalino a scuola, e nel 2001 accade che quel giovane talento che covava fin da piccolo la passione per il giornalismo prova a estendere nel proprio paese l'esperienza di Caffè Babel. Torni in Italia, ma sono solo buchi nell'acqua. Nessuno poteva raccomandare a Roma un napoletano come me, non riuscii a trovare partner o investitori. Molto diverso invece il quadro all'estero. Allora, Adriano, l'Italia offre opportunità solo a chi ha gli agganci giusti? Assolutamente, Sergio, con tutto il rispetto per chi poi alla fine comunque ce la fa senza gli agganci, ce ne sono di persone, tanto di cappello, però ecco, per la maggior parte di noi che diciamo nasciamo senza tutti questi agganci è estremamente difficile. È purtroppo un sistema chiuso, ed è chiuso secondo me perché non è la nostra una società fondata sulla mutua fiducia tra i suoi cittadini, che invece è un elemento fondamentale, e quindi ci ritroviamo chiusi in un muro di gomma di nepotismo, di gerontocrazia e di chiusura al nuovo. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Alla fine di quell'anno ho fatto le valigie e me ne sono tornato in Francia, stavolta a Parigi, dove Caffè Babel è diventato grande, ha trovato finanziamenti, ha assunto giornalisti e è cresciuto in 25 città europee. Così descrivi, Adriano, il processo che ha portato a uno sviluppo esponenziale dell'idea. Un'idea giovane fatta da giovani, avevate solo 20 anni. Allora, quali sono stati gli ingredienti giusti dell'ecosistema francese che hanno permesso tutto ciò? Serve conoscere qualcuno? Fare impresa all'estero è molto più semplice, semplicemente perché è tutto basato sul merito, sull'innovazione, e davvero ci sono porte aperte per chi vuole lavorare. Tralasciamo il fatto che nel frattempo in Francia sei stato anche freelance per Le Figaro, che non è facile fare la stessa cosa per un grande giornale italiano, arrivando diciamo dal nulla. Nel 2009 approdi ad Omni, magazine di tecnologia e innovazione, per il quale ricopri la carica di vicepresidente per lo sviluppo internazionale, prima di, parole tue, soccombere al fascino della cultura d'impresa americana. Allora, cosa ti porta nel 2010 in Silicon Valley e per fare cosa? È stata una Knight Fellowship, un programma, una borsa di ricerca che ho vinto al Dipartimento di Comunicazione dell'Università di Stanford in California, che mi ha permesso di arrivare in America, dove ho potuto fare dei progetti sperimentali che poi hanno permesso di creare la mia ultima startup. Tu ti definisci un imprenditore europeo, allora quanta differenza c'è nel fare impresa tra Europa e Stati Uniti? Ci sono tre livelli. L'Italia è un sistema che io definirei tribale, basato su gerontocrazia e nepotismo, nel quale ci sono delle sacche di creatività che riescono ad esprimersi, e forse proprio perché così duro lo fanno delle volte con sistemi di eccellenza. La Francia invece è basata sulle pari opportunità, quindi è una meritocrazia nella quale se lavori hai quello che ti meriti. In America si va al di là dell'eguaglianza, è un sistema liberale, liberista, basato sull'innovazione e sul fallimento visto come base della ripartenza possibile. Un anno fa diventi imprenditore residente a StartX, incubatore startup di Stanford, pochi mesi dopo lanci WatchUp. Ci racconti allora cos'è WatchUp e qual è l'idea alla base? Guarda, per tantissimi anni sono sempre stato affascinato dal telegiornale. WatchUp permette di aggregare diversi servizi da diversi canali di informazione e di poter creare il nostro proprio telegiornale personalizzato. Io ho la coscienza a posto, provarci in Italia ci ho provato. Commenti a giovanitalenti@radio24.it. Qual è il fattore, Adriano, che secondo te potrebbe rivoluzionare l'Italia innescando il cambiamento? Sicuramente l'Europa. Il cambiamento in Italia purtroppo non verrà da dentro ma verrà da fuori. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Il problema è che c'è troppo pessimismo in Italia. Io invece proporrei un day, una giornata nella quale tutti gli italiani si impegnano a non fare raccomandazioni, a non fare furberie, perché il problema in Italia non nasce dalla classe dirigente. La classe dirigente in una democrazia è lo specchio del paese. Giovani talenti, Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Adriano Farano, 32enne imprenditore start-upper in California, dove sta incubando la propria idea WhatsApp a Stanford. Adriano, nonostante la giovane età, ha un lunghissimo curriculum alle spalle. La prima startup la crea poco più che ventenne, quando in Erasmus a Strasburgo cofonda il primo magazine online paneuropeo caffebabel.com, restandone al timone fino a 2 anni fa. Nel 2010 il grande salto negli Stati Uniti grazie a una borsa di ricerca, prima di lanciare la nuova startup. In Italia ci ha provato, ha la coscienza a posto, ma ha sbattuto contro troppi muri di gomma, non conoscendo nessuno. Mancanza di fiducia, nepotismo, gerontocrazia, questi i principali problemi che Adriano individua nel bel paese. Ci raggiunge nuovamente in linea Ivan Lobello, vicepresidente di Confindustria, responsabile per l'education. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Vicepresidente Lobello, la storia di Adriano è emblematica, un giovane di talento che nell'ecosistema giusto riesce a fare strada. Allo stesso tempo la sua è la denuncia di un paese, l'Italia, troppo conservatore per questa nuova generazione tecnologica, troppo avverso al rischio e al nuovo per questi figli dell'Europa e della globalizzazione. È ora di cambiare marcia? Come soprattutto? Ma credo di sì. Beh, intanto Adriano ha raccontato a tutti una sorta di manifesto per la nuova Italia. Ha parlato di un paese del ribale, sono d'accordo, un paese che non ha riguardo per merito e innovazione, un paese dove prevalgono le raccomandazioni, dove è molto difficile fare impresa. Il linguaggio di Adriano è il linguaggio di una persona capace di capire bene il nostro paese e il mondo. Io quello che auspico è che Adriano possa tornare in un'Italia nuova e svolgere un ruolo importante nel nostro paese, e anch'io penso che il nostro cambiamento passi essenzialmente dall'Europa e dalla capacità di mettere al centro i tanti ragazzi che rappresentano un potenziale enorme per il paese. Guardi, io parlo moltissimo con i giovani, e c'è una generazione, ormai più generazioni, che attraverso l'Erasmus o attraverso l'intercultura e altri strumenti, già nella scuola secondaria superiore, hanno una visione profondamente diversa dell'Italia, senza quella dimensione relazionale, ripeto, stantia, di favori. Adriano infatti pone tra le altre cose un problema di mancanza di trasparenza in Italia. Noi diciamo magari anche trasparenza nei canali di accesso al lavoro, nelle carriere. Non bisognerebbe forse ripartire da lì anche nel mondo delle imprese? Le posso dire questo: nel paese la cifra fondamentale la cooptazione, non la valutazione attraverso il merito. Si coopta chi è più fedele, anche se meno bravo, chi riesce a dare continuità a vecchi sistemi, perché il nostro fondamentalmente è un paese profondamente conservatore, un paese che non vuole cambiare gli equilibri attuali, perché gli equilibri attuali hanno maturato nel tempo una rendita per le classi dirigenti, e i ragazzi che vogliono stare dentro le classi dirigenti in larga parte devono essere cooptati e stare dentro quella cultura. Però le ripeto, io sono estremamente positivo sul nostro paese. La pressione dell'Europa e la pressione dei grandi cambiamenti economici, sociali e tecnologici in qualche modo finiranno per smantellare questa struttura sociale arretrata che frena il paese. Lei ha dichiarato in un'intervista, si parla sempre di fuga di cervelli, ma quello di cui non ci accorgiamo è che da anni è in corso una fuga di talenti. I giovani migliori, quelli meglio formati, vanno all'estero e vengono saccheggiati dalle multinazionali. Allora, in primo luogo io la ringrazio, perché è quello che noi sosteniamo da 3 anni in questa trasmissione. In secondo luogo, vicepresidente, come farli tornare? Le nostre imprese sono pronte a riappropriarsi di questo tesoro in capitale umano, rendendosi attrattive? Beh, intanto è importante che i ragazzi vadano fuori. Sì, assolutamente. Vadano fuori, un'esperienza in grandi paesi europei, negli Stati Uniti o anche nei grandi paesi emergenti, un'esperienza che cambia la vita a tanti giovani. Io non sono uno di quelli che guarda a questa crisi con terrore o con paura. Questa è una crisi che ha ovviamente radici economiche, ma segna la fine di un'epoca, che passa attraverso un grande cambiamento tecnologico. È un cambiamento di modelli, forse, in arrivo. Un nuovo paradigma che sta entrando piano piano nella vita quotidiana delle persone, delle aziende, delle realtà istituzionali. Adriano, è una domanda per Ivan Lobello? Volevo sapere se lei pensa che negli ultimi 10-15 anni la situazione del nostro paese dal punto di vista della meritocrazia, delle possibilità per i giovani, sia migliorata o peggiorata. Secondo me in questi ultimi anni la situazione è peggiorata. Sono convinto che siamo alla fine, come dicevo prima, alla fine di un'epoca. In questi ultimi anni probabilmente si è accentuato il riflesso conservatore del nostro paese, ma nel frattempo sono emersi tantissimi giovani. Lei, Adriano, ne è una prova vivente. C'è un mix fra volontà imprenditoriale e passione civile nelle nuove generazioni, che è un elemento enorme, importante per il paese. Per questo io sono fiducioso sulle prospettive future del nostro paese. E vicepresidente Lobello, se posso riassumere, innovazione, capitale umano, le chiavi del futuro. Una buona istruzione, un'istruzione con una dimensione internazionale è fondamentale nel nostro paese, e l'innovazione lo è ancora di più. Dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo essere in grado di ricostruire vivere un rinascimento nei prossimi decenni, non guardare a quello che è successo 500 anni fa a Firenze e dintorni. E questo è il limite del paese. Il nostro è un paese restio a misurarsi con l'innovazione e con i cambiamenti. Però, ripeto, c'è una generazione consapevole di questo che secondo me nei prossimi anni sarà protagonista assoluto di una svolta importante per il nostro paese. Grazie a Ivan Lobello, vicepresidente di Confindustria. E domanda di rito per Adriano Farano: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? In generale il mio consiglio è andare all'estero, assaporare il piacere proprio di quel che vuol dire essere se stessi, perché purtroppo questo paese non ci permette a noi giovani di essere noi stessi. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi parliamo di un interessante progetto che tocca da vicino gli emigrati umbri, in particolare la nuova ondata di giovani professionisti espatriati. Sempre più enti locali se ne stanno occupando e un esempio significativo in questo senso arriva dal progetto Brain Back Umbria. Ci racconta tutto Anna Ascani, direttore dell'agenzia Umbria Ricerche. Questo progetto nasce quest'anno, è stato lanciato con il sito il 2 di agosto del 2012 per diversi motivi. Il primo perché penso che bisogna fare degli emigrati una risorsa per l'Italia e per la nostra regione. E poi anche, devo dire, grazie a lei, perché ascoltando la sua trasmissione ho potuto approfondire questo progetto. Questo progetto che parte da un'indagine sugli emigrati umbri del mondo. Abbiamo raccolto i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni, 92 comuni dell'Umbria ci hanno fornito i dati, sappiamo che sono più di 30.000, prevalentemente nel Benelux, in Francia, Svizzera, ma anche tanti sono in Argentina, in Canada e anche adesso in Australia. Però stimiamo che gli umbri residenti all'estero siano più di 80.000, perché moltissimi di questi, soprattutto giovani, non si registrano all'anagrafe. Parliamo proprio dei giovani immigranti. Voi avete la percezione che ci sia un'ondata di giovani professionisti qualificati che lasciano l'Italia, in questo caso ovviamente l'Umbria? Assolutamente sì. Io conosco anche personalmente tanti ragazzi che scelgono di lasciare l'Umbria sia per studiare ma anche perché qui non trovano un lavoro qualificato. E dei questionari che stanno compilando, noi possiamo acquisire tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Già dai primi questionari che abbiamo ricevuti, il 42% sta prendendo in considerazione la possibilità di tornare. La maggior parte ha un dottorato in master, soprattutto in economia, chimica, medicina, giurisprudenza, il resto quasi tutti con la laurea. L'età media si aggira dai 30 ai 39 anni. Lo dice il nome stesso, Brain Back, però sì. Quali iniziative intendete mettere in campo per riattrarli? È previsto un concorso di idee imprenditoriali finalizzato a favorire il rientro degli emigrati umbri nel nostro territorio attraverso la creazione di imprese e lavoro autonomo. Altra iniziativa contenuta comunque all'interno del sito è la possibilità di mettersi in rete con le imprese dell'Umbria. In sintesi, il messaggio è: sappiamo perché ve ne siete andati, ora però la vostra regione ha bisogno di voi. Abbiamo bisogno di loro perché sono giovani, sono persone qualificate e meritano tutta la nostra attenzione e il nostro supporto. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.brainbackumbria.eu. Un motivo per restare o tornare. UNAS Italia-Germania è il nome del lavoro e della formazione, con l'obiettivo di rafforzare il mercato dell'impiego e promuovere l'occupazione giovanile. Questo è lo scopo del memorandum d'intesa firmato tra Roma e Berlino. Prevista un'agenda per la collaborazione binaria tra aziende e scuole che individui il numero di ragazzi selezionati per partecipare a forme di apprendistato nei due paesi. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione è: una maggiore e più concreta integrazione università-mondo del lavoro può evitare la fuga dei talenti dall'Italia favorendo canali sani e meritocratici di ingresso con esperienze reali fin da studenti, o serve anche altro? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.